che dobbiamo pensare a qualcosa di altro, ma la forza del miracolo per il supporto delle scelte da potere, ma la forza valida non si può calcolare in una quantità. E la domanda è la stessa che ci avevamo fatto prima, no? Vediamo Paolo, guarda, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.